Il libro, appunto, il titolo è molto esplicito, Carcere e Covid, due elementi di una certa rilevanza, soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni. Il libro, io leggendolo, lo considero un diario a ritroso di quello che è avvenuto, molto preciso, ragionato su tutti i vari passaggi. Qualcuno che ha recensito il libro, forse era anche l'introduzione, l'ha definito una modalità da moviola, insomma, per rivedere i fatti, analizzarli con i tempi adeguati, per raccontare intanto quello che è avvenuto, che è significativo, e per fare in modo appunto che a partire da da quel tipo di esperienza si possa trarre anche in qualche modo delle considerazioni che possono essere utili. Allora, il carcere è una questione che nel nostro paese complessivamente è sempre stata tenuta a parte. E molto spesso abbiamo sentito amministratori pubblici, anche di questa città, che dicevano che il carcere doveva essere una casa di vetro, doveva essere il luogo più trasparente della nostra comunità. Non è mai stato così. Che non sia una casa di vetro credo che sia nel modo di pensare comune di tante persone che hanno cercato di affrontare le questioni. Il carcere nel nostro paese ha sempre avuto da anni problemi legati al discorso del sovraffollamento, delle condizioni di vita. È intervenuta anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a livello europeo per dire che l'Italia con il suo modo di gestire le carceri era al di fuori anche delle logiche stesse europee. Però la cosa più evidente è che questo mondo non cambia mai, oppure se cambia, cambia in peggio. Molto spesso per i detenuti non c'è nessun tipo di prospettiva, se non quella di sperare in un'amnistia, in un indulto, che però sono decenni che non ci sono, e all'orizzonte, anche se ogni tanto che quotidianamente nelle sezioni appunto delle case circondariali i detenuti parlano sempre di amnistia e di indulto, ma questi provvedimenti non si vedranno mai. Il Covid è entrato, la pandemia, in una situazione che era già grave in precedenza. Eravamo di fronte a un livello di sovraffollamento molto elevato, eravamo di fronte a una condizione abitativa delle persone appunto recluse, degradata per molti aspetti, eravamo di fronte anche a un'opinione pubblica che era stata condizionata da campagne che si proponevano continuamente con atteggiamenti del tipo: ci hanno fatto qualcosa, hanno sbagliato, chiudiamoli e buttiamo via la chiave. Questo tipo di ragionamento l'abbiamo sentito in tante occasioni. Su questo tipo di ragionamento molti politici di diversi schieramenti hanno costruito le loro fortune. Poi però la situazione è una situazione drammatica che ha prodotto oggettivamente le rivolte che del mese di marzo del 2020, che qualcuno ha descritto, c'è stata una campagna di stampa che ha descritto queste rivolte come rivolte costruite ad hoc, gestite con un piano preordinato. In realtà chi frequenta quei luoghi ha la consapevolezza che non ci fu niente di preordinato. Ci fu un livello di disperazione che esplose in maniera esponenziale a partire dal fatto che i detenuti l'unica cosa che hanno rispetto all'esterno molto spesso è la televisione che guardano quotidianamente, e dalle notizie che appresero dai telegiornali sulla prima rivolta di Salerno e poi su quella di Modena furono in qualche modo indotti a entrare in quel meccanismo. rivolte che non avevano, anche da questo punto di vista, il fatto che sta a dimostrare che non c'era un piano, non avevano degli obiettivi da richiedere, non erano proteste simili a quelle degli anni 70 in cui si chiedevano delle cose specifiche sulle condizioni di vita dei detenuti, sul miglioramento, sul fatto che appunto diciamo provvedimenti legislativi approvati che sono in vigore, che prevedono dei percorsi anche di uscita dalla carcere diversi dalla detenzione, pure semplice, potessero funzionare. Io molto spesso dico che la legge del 1975 di riforma penitenziaria è una delle leggi più criticate. Molto spesso, o quasi sempre, c'è qualcuno che dice che la legge deve essere abolita, deve essere modificata, perché è una legge troppo permissiva. In realtà quello che si sta verificando è che le misure alternative nel nostro paese, che sono previste dalla norma, sono applicate in misura ridottissima rispetto alle quantità che potrebbero appunto aprirsi sui detenuti che hanno già scontato un periodo di pena di un certo tipo e potrebbero accedere alle misure. Il problema è che anche la struttura stessa con cui le misure alternative vengono molto spesso discusse, erogate o non erogate, partono da un presupposto che è un presupposto che la legge stessa non prevede. Cioè ormai la magistratura di sorveglianza dovrebbe avere un compito, in primo luogo, di verifica delle condizioni di vita dei detenuti per far sì di controllare se i presupposti della legge vengono effettivamente applicati oppure no. In secondo luogo di verificare il comportamento carcerario dei detenuti per poi applicare la misura alternativa è diventata, questo lo dico credo con abbastanza cognizione di causa, vivendo quasi quotidianamente quel tipo di esperienza dentro il carcere, ormai è un quarto grado di giudizio, nel senso che una misura alternativa non viene data rispetto alla pena che hai scontato, al comportamento che hai avuto, ma se rispetto al delitto che hai commesso hai costruito una elaborazione, un pentimento, tutte cose che sono legate ai primi tre gradi di giudizio, cioè il fatto che una pena è diversa a seconda del comportamento processuale del detenuto e quindi da questo punto di vista il detenuto quella pena definitiva se l'è presa e poi deve gestirla nel corso della sua vita da recluso. E invece molto spesso gli educatori, le poche volte che incontrano i detenuti, si pongono in questo modo e anche i giudici di sorveglianza. Quindi molto spesso succede che detenuti che hanno la possibilità di un lavoro esterno, quando hanno fatto metà della pena, se lo vedono rifiutare e si vedono semmai combinare una misura di semilibertà che dovrebbe essere la metà pena quando gli mancano due anni alla fine della detenzione, quando potrebbero accedere a un'altra misura che è l'affidamento ai servizi sociali. Tutto questo tipo di contesto si è aggravato moltissimo con l'esplosione della pandemia alla fine del mese di febbraio del 2020, quando una serie di provvedimenti presi dal ministro della giustizia Bonafede, che non è stato un gran ministro della giustizia, ricordato soprattutto perché era solito mettersi la casacca della polizia penitenziaria, la giacca vento, ma per altre cose rispetto appunto alla condizione dei detenuti e a quello che stava avendo nelle carceri ha soltanto contribuito ad aggravare la situazione precedente. Bene, vennero presi una serie di provvedimenti giustificati dal discorso dell'esplosione del Covid. Il primo, quello più grave, era il blocco dei permessi, dei colloqui con i familiari. I colloqui familiari, 4 ore al mese più un'ora di colloquio straordinario, è l'unico momento in cui molti, non tutti, possono avere un rapporto con l'esterno, con le loro famiglie. Cioè bloccare anche questo tipo di possibilità chiaramente crea disagi ulteriori. In secondo luogo, furono aboliti tutti i permessi, perché si diceva che i permessi potevano in qualche modo attivare il meccanismo della diffusione del Covid, furono bloccati tutti i provvedimenti di misure alternative, si doveva uscire di misure alternative al lavoro esterno, si vide comunque bloccare i provvedimenti, tutte le udienze della magistratura di sorveglianza furono sospese, bloccate. In più partì anche una campagna, dal mio punto di vista veramente paradossale, nel senso che vennero presi in quel contesto alcuni provvedimenti che non erano provvedimenti legati, diciamo, a un decreto presidenziale di PCN che vennero presi a ripetizione nell'epoca appunto del primo periodo di pandemia, che prevedeva appunto dei provvedimenti di uscita dal carcere di detenuti in determinate condizioni, come in altri paesi è stato fatto quando la pandemia esplode. L'Iran dei seguaci di Khomeini fece un provvedimento appunto a causa del Covid fece uscire 85.000 detenuti, cioè l'Iran è sempre considerato dal suo punto di vista un paese arretrato. Bene, l'Italia è stata lontana anni luce da un provvedimento di questo genere. Vennero presi alcuni provvedimenti legati alla gestione normale della situazione di detenzione rispetto a problemi di salute per alcuni detenuti in gravi condizioni di salute che con il Covid rischiavano appunto di lasciarci la vita. Vennero presi alcuni provvedimenti, immediatamente partì una campagna di stampa che nel libro è descritta in maniera puntuale, è una delle parti secondo me più importanti per far capire il clima che si è vissuto in quel momento, una campagna di stampa che diceva che con quel provvedimento sarebbero usciti 300-400 boss mafiosi. È una cosa che non era vera in primo luogo. In secondo luogo, gli detenuti che sarebbero usciti avevano già comunque scontato 5/6 abbondanti delle pene, gli mancava veramente pochissimo, quindi avrebbero scontato gli ultimi 18 mesi di detenzione agli arresti domiciliari. Partì questa campagna, immediatamente il provvedimento venne ritirato, poi dopo è stato in qualche modo rimesso in piedi sotto altre forme, con la possibilità di una licenza per chi aveva un fine pena inferiore ai 18 mesi e si poteva scontare o agli arresti domiciliari o nell'abitazione dei familiari oppure in strutture messe a disposizione tipo alloggi sociali o quant'altro. Anche questa cosa secondo me è importante raccontarla perché per far vedere che poi anche quando viene preso un provvedimento che in qualche modo può andare incontro a questioni come il diritto alla salute, che dovrebbe essere un diritto per tutti, poi alla fine non viene applicato. Nella nostra regione venne approvato un provvedimento da parte della giunta regionale che prevedeva di utilizzare una parte delle casse ammende e una parte della regione, 467.000 euro per aprire alloggi sociali dove inserire detenuti che si trovavano nella condizione di avere meno di 18 mesi di pena per poter appunto uscire a causa del Covid. Sapete quanti ne sono usciti? 14, quando ne potevano uscire almeno 300-400, quando quei fondi potevano servire per coprire appunto posti rispetto a quei numeri. 14 ne sono usciti. Ecco, la campagna che si creò di allarme, prima su alcuni giornali, il Fatto Quotidiano in primo luogo, poi l'Espresso, anche Repubblica calcò abbastanza la mano, poi presero diciamo, la questione in mano alcune trasmissioni televisive e viene descritta questa situazione in cui una questione di salute grave, come poteva essere la pandemia rispetto a condizioni di restrizione come viene nel calcio, furono gestiti come dice il libro, giustamente una questione di mafia, quando non era assolutamente queste caratteristiche. I 14 detenuti, per farvi un esempio, che sono usciti in Emilia Romagna, non ce n'è uno che è legato a organizzazioni di criminalità organizzata, e quindi sono persone che appunto gli mancavano, avevano dei fine pena di questo tipo. Ecco, allora anche questa occasione, che è un'occasione grave, perché comunque il tema c'era nel carcere di Bologna, a un certo punto c'erano 240 detenuti positivi al Covid e c'erano 120 agenti positivi al Covid, e a portare il Covid dentro il carcere erano gli agenti della polizia penitenziaria, perché in quel periodo tutti, un'altra cosa che fu approvata era la chiusura di tutti i progetti di volontariato, progetti teatrali, progetti di inserimento al lavoro, e quindi nessuno entrava in carcere se non appunto agenti della polizia penitenziaria o personale dell'amministrazione penitenziaria. Ecco, ma la cosa paradossale è che pur con tutte queste chiusure, elementi minimi come potevano essere strumenti di protezione come le mascherine in carcere non c'erano. I detenuti, se volevano, c'era l'obbligo di usare la mascherina per uscire dalle celle, però la mascherina non veniva data, doveva essere comprata alla spesa del sopravvitto a dei prezzi che già quelli, c'era stata assicurazione all'esterno, in carcere era veramente, cioè 5 mascherine e 5 euro, questa era la questione. E molto spesso gli agenti di polizia penitenziaria non avevano le mascherine perché non erano arrivate le dotazioni dal Ministero. Quindi in questa situazione, in un carcere come quello di Bologna, era stato costituito un reparto Covid con 28 posti e c'erano 220 detenuti in quella condizione, quindi capite benissimo che casualmente non è successo qualcosa, cioè sono deceduti soltanto alcune persone anziane che potevano anche essere messe fuori con condizioni di salute molto gravi, e gli altri, per la verità, la popolazione giovanile è una popolazione giovane nella maggior parte dei casi, quindi poi dopo partì il discorso della vaccinazione, ma oggi la situazione è sicuramente meno complessa, è comunque ancora grave, perché comunque adesso anche con questa ultima variante ha cominciato di nuovo a circolare e non ha le caratteristiche di gravità delle varianti precedenti, però comunque il tema è un tema ancora presente che limita, perché le scelte che vengono fatte, c'è un detenuto positivo, viene chiusa una sezione, sta in bolla 10 giorni in una quarantena, e poi non possono negli altri tutti, ma tutti, cioè, dentro vivono normalmente, quindi non c'è nessuna protezione, quindi un modo molto raffazzonato di affrontare queste questioni. Il libro, e poi Sandra ne parlerà meglio, descrive tutti questi passaggi a livello nazionale, un'analisi precisa, e racconta questo percorso negativo che abbiamo dovuto subire in più rispetto alla situazione che era già grave di per sé in precedenza. Quindi io l'ho fatta anche troppo lunga, darei la parola a lei, che nel corso di questi anni ha mantenuto la costanza di frequentare quotidianamente le carceri, analizzare quello che avveniva in tutte le carceri del nostro paese, non solo, e quindi è la persona più adatta per raccontare appunto questa vicenda, e credo che il libro sia un contributo prezioso che servirà a chi vuole capire effettivamente qual è la condizione delle carceri del nostro paese in una situazione di pericolo sanitario come quello che è stato rappresentato dalla pandemia del Covid. Perdona. Dopo, aspetta. Ognuno deve passare dalla strada, hai capito? sì. Perché il carcere un luogo di merda, hai capito? Va bene, dopo. Grazie Valerio, buonasera a tutti e a tutte. Grazie per questo invito, ma dopo la tua introduzione io quasi per poco da dire. No, posso approfondire sicuramente alcuni aspetti, ma Valerio, insomma, l'ha proprio letto bene il libro, oltre a vivere, secondo me, le situazioni carcerarie anche per l'attività e il lavoro che svolge, quindi è un'altra persona assolutamente titolata a parlare di carceri, a differenza dei tanti amanti della dietrologia e di giornalisti che hanno cavalcato l'ondata del Covid, l'ondata delle rivolte che c'è stata, più che altro per agitare tutta una serie di fantasmi. Però vorrei procedere un po' con un po' più di ordine. Allora, con l'esplosione del Covid, io insieme ad altri, insieme ad altre associazioni, tra l'altro anche alcune associazioni bolognesi come l'associazione Bianca Guida Civerra, questa sera Alessandra e Donato non ci sono perché credo siano proprio fuori Bologna, e sono associazioni con le quali collaboriamo abbastanza spesso riguardo alle questioni carcerarie. Proprio in quel periodo, nel momento in cui è iniziato ad affacciarsi questo virus, che ancora non era stato neanche classificato, non gli era stato dato un nome, però aveva iniziato a mietere le prime vittime, soprattutto in Cina, però poi è arrivato anche in Italia, no? Perché l'Italia è stato il secondo paese, dopo la Cina, ad essere colpito da un gran numero di contagi. Insieme alla Bianca Guida Cicerra, Osservatorio Repressione, la Papion, anche sezione Emilia Romagna, insomma con un po' di associazioni che conoscevamo le vicende carcerarie, ci siamo iniziati ad interrogare e presentammo anche un appello ai primi di marzo, proprio il 4 marzo, inviamo un appello a tutte le autorità competenti perché immaginavamo cosa sarebbe potuto succedere all'interno delle carceri se quel virus arrivava all'interno delle sezioni. Abbiamo pensato alle sezioni dei comuni, alle sezioni sovraffollate, perché non a caso le rivolte, per quanto poi gli amanti della dietrologia hanno indicato una regia, sicuramente, cioè il giorno dopo, il minuto stesso, hanno indicato questa regia dranghetista con un sodalizio con gli anarchici, non so come sia venuta fuori, però questa è la regia che è stata indicata dietro le rivolte sono scoppiate nelle sezioni dei comuni, dei detenuti comuni, quindi quelle maggiormente sovraffollate, nelle città metropolitane, nelle città con un alto tasso anche di immigrazione, vedi Salerno, come vedi anche Modena, Milano, Bologna, Rieti, Resistia non è stata toccata tanto da rivolte, però ci sono state anche lì delle manifestazioni da parte dei detenuti e quello che chiedevano i detenuti era protezione. Noi pensavamo a quelle sezioni, quei cameroni, ho visitato una cella del carcere di Poggio Reale, questa la porto sempre ad esempio su tutte, no? Una cella di non più di 25 metri quadrati con 14 posti letto e 14 persone dentro, le brande messe a tre piani, le chiacchiappello a tre piani che coprono fino anche i finestroni, per cui era impossibile anche il ricambio dell'aria e quindi noi fuori eravamo martellati continuamente dalle raccomandazioni che venivano emanate dal ministero, distanziamento sociale, massima igiene. Allora abbiamo provato ad immaginare quale igiene fosse possibile all'interno di una cella con 14 persone costrette a condividere un bagno di 2 metri quadri che fa da bagno e fa da cucina. per 14 persone senza neanche poter cambiare l'aria. Allora questo distanziamento era impossibile. Quello che è successo in Italia in quel periodo lo dobbiamo iniziare a leggere un po' prima. Nel mese di gennaio c'era stata l'ennesima relazione da parte della Commissione europea per la prevenzione della tortura e condannava ancora una volta l'Italia per alcuni aspetti specifici. Il primo, senz'altro, quello del sovraffollamento. Il secondo, la frequenza e la quantità di abusi da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Un surplus di afflizioni all'interno dei regimi detentivi speciali, quindi degli isolamenti, delle sezioni di 41 bis. Allora, per esempio, il 41 bis ha l'obiettivo e la funzione di interrompere i collegamenti tra i capi mafia con le organizzazioni di appartenenza. Oggi anche questo paradigma in qualche modo è saltato perché non ha più solo questa funzione. Veramente credo che non l'abbia mai avuta, perché l'obiettivo principale del 41 bis è quello di costringere il detenuto a collaborare con la giustizia. Collaborare nonostante tutto, anche laddove si è ampiamente dimostrato l'impossibilità di collaborare, sia per una questione di sicurezza magari di familiari che non c'entrano nulla con i reati e con le condotte scelte da determinate persone, sia magari proprio per la mancanza di elementi, più di esistenza di determinate organizzazioni. Però qui entreremmo in un altro, sarebbe un'altra presentazione e un'altra iniziativa se volessimo parlare poi di questo. Però la Corte europea sanzionava l'Italia ancora su questo, per l'eccesso di abusi da parte della polizia penitenziaria, e prendeva due casi in particolare, uno quello di Torino e l'altro quello di Viterbo. Nelle settimane a seguire c'era stata la relazione del ministro Bonafede al Parlamento, la relazione annuale, e non fa assolutamente riferimento a questa che è stata l'ennesima ammonizione da parte del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura. Diverse interviste, me le sono andata a ascoltare più o meno tutte, ho seguito un po' tutti quanti i telegiornali e le interviste sia televisive che giornalistiche rilasciate dal Ministro, ma non ha mai fatto riferimento a queste sanzioni comminate dall'Europa. Mentre invece faceva riferimento allo snellimento della giustizia, al facilitare gli investitori, parlava di giustizia civile, facilitare gli investitori europei, sostanzialmente liberare le mani agli imprenditori per poter venire a investire in Italia. Però se in Italia ci sono ancora troppi diritti dei lavoratori in qualche modo tutelati, gli investitori stranieri non vengono. E questo sarebbe un altro capitolo ancora da andare ad indagare, e che purtroppo di giustizia ci se ne occupa troppo poco, sia come società civile sia come movimenti. Di giustizia ci se ne occupa nel momento in cui tocca noi stessi, in quanto militanti magari, allora lì ce ne occupiamo. Però continuiamo a ignorare alcuni passaggi, cioè noi continuiamo ad essere regolamentati da un codice penale che porta la firma di Vittorio Emanuele, Benito Mussolini, Rocco. Cioè, due domande ce le dovremmo porre rispetto a questo, se continua ad esistere questo codice penale e nessuno se ne interessa, no? Questo per dire veramente il disinteresse che c'è rispetto alle questioni penali di giustizia e carcerarie, come se fosse un mondo a parte, ma riguarda tutti quanti noi, perché continuiamo a subire determinati reati, diciamo un po' visto il luogo dove ci troviamo, no? Che è un centro sociale, continuiamo a subire la tunata sediziosa. e questo continuiamo a subire la sorveglianza speciale, continuiamo a subire la costrizione delle firme. Ecco, però nel corso degli ultimi 50-60 anni nessuno ha mai messo mano veramente ad una riforma organica della giustizia e del codice penale. Sostanzialmente nessuno si è voluto assumere questa responsabilità. Questo ministro i problemi se li è posti, però se li è posti chiaramente in chiave del suo tempo, in chiave di quelli che erano gli interessi anche dei suoi sostenitori politici. Non un cenno al sovraffollamento che c'era in quel momento, oltre 61.230 persone mi pare ci fossero al 28 febbraio, quindi nel momento in cui il Covid si affacciava in Italia e si affacciava anche all'interno delle carceri. Nei primi DPCM prodotti da questo governo ci sono stati i primi mesi che sono stati più o meno quotidiani questi decreti della presidenza del Consiglio dei Ministri, no? Dei detenuti non se ne parlava. A un certo punto qualcuno deve aver acceso questa lampadina e il primo provvedimento che fanno, come richiamava prima Valerio, è la sospensione dei colloqui. La sospensione dei colloqui, la sospensione delle attività, la sospensione delle traduzioni, la sospensione dei permessi, cose che poi sono state vere fino a un certo punto, perché all'indomani delle rivolte i detenuti sono stati trasferiti in blocco, sono stati trasferiti se morenti, sono stati trasferiti già morti, perché da Modena sono usciti 9 cadaveri. Da Bologna è uscito un uomo che è poi morto nel carcere di Verona, sì, però stava già male da questo metadone, cioè il minuto dopo, senza neanche un'autopsia, era già stato dichiarato che questi 13 morti erano morti per metadone, senza neanche un reperto autoptico. Cioè, abbiamo visto come la stampa in quel preciso momento è scesa tutta quanta a difesa, ha fatto un quadrato attorno a un ministro Bonafede che non è a un primo ministro Conte che non sapevano che cosa dire, non sapevano come giustificare sia la situazione sfuggita di mano all'interno delle carceri, ma le mancanze sono a priori. Perché gli allarmi lanciati da sindacati di polizia penitenziaria, dai cappellani carcerari, che sono quelle figure che comunque il carcere lo conoscono bene perché entrano nelle sezioni, vanno a fare ascolto, vanno a dire la messa, vanno a fare l'ascolto proprio con i detenuti, e in quel momento sono stati punti di riferimento per i familiari e per i detenuti. È rimasta l'unica figura insieme alla polizia penitenziaria ad essere all'interno del carcere, perché tutti quanti gli altri, anzi nei primi paesi dichiarati, nelle prime regioni dichiarate zone rosse, sono stati sospesi anche i cappellani, perché inizialmente i colloqui e le attività erano stati sospesi solo nella zona della Bergamasca, del Bresciano, insomma sono tutta una serie di città, sono stati quelli più colpiti dal Covid, anche nel carcere, e lì fin lì ci stava. Ma la sospensione dei colloqui in tutte le carceri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'ha fatta traboccare a Salerno, dove i familiari erano fuori dal carcere in attesa di entrare. È uscita fuori un agente e gli ha detto: i colloqui sono sospesi. E lì è partita la rivolta. E dopodiché l'effetto domino non ha tardato a innescarsi. E non solo per la questione dei colloqui, ma come nel caso di Modena o altrove, perché era stato riscontrato un detenuto probabilmente positivo al Covid, ma magari con una semplice influenza e 40 di febbre o con qualche altra infezione, qualche altra cosa. Però a quel punto il panico era totale, perché le uniche informazioni che i detenuti ricevono sono quelle che arrivano dalla televisione, e io penso che ognuno di noi ricorda quell'informazione martellante. Perché se a metà febbraio ancora si dedicavano pochi secondi alla questione, ai primi di marzo era un continuo, sia i telegiornali sia i programmi di intrattenimento facevano a gara per intervistare questo o quel medico, specialista, primario, infettivologo, i vari Bassetti e via discorrendo. Io personalmente a un certo punto ho spento la televisione e non l'ho più accesa, perché era un qualcosa che ti creava ancora più angoscia. Allora provate a immaginare le persone che stanno in carcere, che l'unico ponte con l'esterno rimane la televisione, e su qualsiasi canale televisivo sintonizzavi, le informazioni che avevi in una chiave o nell'altra erano quelle, cioè erano quelli più negazionisti, come, cioè, in ogni caso erano delle trasmissioni allarmanti, ansiogene proprio, che trasmettevano ansia e paura. Allora è lì che sono scoppiate le rivolte, sono scoppiate nell'ansia data dai media, dalla mancanza di comunicazione da parte degli attori principali dell'istituzione penitenziaria, perché a differenza per esempio delle autorità elvetiche che comunicano con i detenuti, cioè la direzione va nelle sezioni e va a parlare con i detenuti, a tranquillizzarli, a portargli i dispositivi dal primo secondo in cui viene dichiarata la pandemia, in Italia tutto questo non è avvenuto, perché la comunicazione è avvenuta da una guardia che ha comunicato ai familiari fuori che non ci sarebbe stato il colloquio, magari persone che avevano affrontato centinaia di chilometri di viaggio con viveri, con sacrifici, perché cioè, si parla in Italia di territorialità della pena, ma mediamente si fanno viaggi da Palermo a Tolmezzo, e fare un viaggio da Palermo a Tolmezzo o da Bari a Oristano significa che una famiglia spende intorno ai 1.000-1.500 euro se vuole andare a colloquio, una volta ogni tot anni, altrimenti ci sono detenuti che non fanno colloquio anche per 10 anni, se non di più. Chi è condannato a lunghe pene molte volte non fa colloqui anche per più di 10 anni, perché genitori ammalati, anziani, cioè immaginiamo una persona di 50 anni avrà genitori di almeno 70-80 anni, che non se la sentono di affrontare un viaggio dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Campania, fino dall'Albania, dal Marocco, cioè, fino a per destinazioni veramente 1.000-1.200 chilometri, ma anche 500, 600, 700 diventano, perché una delle questioni principali, se noi andiamo a guardare la composizione della popolazione detenuta, tra quella italiana il 90%, se non più, della popolazione italiana detenuta è meridionale. Parlo di almeno un 60-70% del totale della popolazione detenuta, quel rimanente 30-35% è migrante, molti con familiari, molti invece non hanno familiari sul territorio italiano, perché magari sono migranti economici, gente che è venuta in Italia per cercare fortuna, però ha trovato o sfruttamento o manovalanza, o essere arruolati nella manovalanza della criminalità. Insomma, sono un po' questi, diciamo, gli estremi delle possibilità che poi effettivamente hanno. Per cui questa è stata la situazione, non c'è stata nessuna comunicazione da parte delle autorità preposte nei confronti dei detenuti, non c'è stata nessuna presa di precauzioni reali ed effettive, né di misure deflattive, che era la cosa più logica da fare. Però il ministro Bonafede, un ministro dei 5 Stelle che ha fatto della legalità e dell'onestà con la H la propria bandiera, la preoccupazione principale è stata quella di non passare per il ministro che stava mettendo fuori tutti, che stava facendo un liberi tutti. E lì gli ha dato manforte, insomma, il suo alter ego giornalistico, che è stato Marco Travaglio, con il Fatto Quotidiano, con una direzione ben precisa. Io riprendo un po' di commenti fatti esattamente non da amici miei, perché io non penso che persone che stanno proprio da un'altra parte siano delle persone con le quali mi trovo in linea, però ho dovuto prendere atto di un Carlo Nordio, ex procuratore della Repubblica di Venezia, che ha definito Bonafede come il ministro veramente più squinternato della storia repubblicana, un ministro che faceva da alter ego a Piercamillo Davigo, una persona, un magistrato che per il quale non esistono innocenti, ma esistono solo colpevoli che sono riusciti a farla franca, dove un ministro che definisce il processo plasticamente con l'accusa, la difesa e la condanna, la soluzione non esiste all'interno del processo, quindi sono tutti qualcuno che ha fatto qualcosa e merita il carcere, non merita un'altra possibilità, ma è figlio di quella cultura del buttiamo via la chiave, e figlio di quella cultura del più galera per tutti. E questo spirito non è stato messo da parte di fronte ad una pandemia mondiale, dove si cercava in qualche modo, io questo lo posso anche capire, no? Che inizialmente non si sapeva cosa fare, perché ha colto tutti quanti in maniera, cioè, ha colto tutti quanti, a cominciare dalla comunità scientifica, in maniera impreparata. Però abbiamo visto esempi, Valerio prima citava per esempio l'Iran, l'Iran che sicuramente non è un paese che tutela i diritti umani, ha messo fuori, ha sospeso la pena 80.000 persone, seguendo in qualche modo quelle che erano anche le indicazioni degli organismi internazionali, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, indicazioni che erano state date anche all'Italia e alle quali l'Italia avrebbe dovuto attenersi, e ha cercato di farlo in un secondo momento con una circolare emanata dal DAP il 20 marzo sempre del 2020. Quindi siamo già a rivolte, morti avvenuti, perché quelli le rivolte partono il 7 marzo, al 9 marzo le rivolte sono state tutte quante sedate, e sono state sedate nella maniera tragica che sappiamo. Sulla stampa ha tenuto banco la questione dei morti e delle rivolte, e ha tenuto banco appunto con queste ricostruzioni in qualche modo dietrologiche, che volevano per sì e per forza una regia dietro quelle rivolte, dietro quei morti. La ricostruzione di Comodo, che in qualche modo assolveva lo Stato e le responsabilità che aveva, perché lo Stato aveva delle enormi responsabilità anche per lo scoppio di quelle rivolte. Perché se ci fosse stato un processo comunicativo corretto, se ci fossero stati dei provvedimenti reali, deflattivi e in qualche modo anche cautelativi, no? Della salute dei detenuti, probabilmente le rivolte non ci sarebbero state. Invece le rivolte sono scoppiate perché i detenuti erano altamente consapevoli che se quel virus entrava là dentro, e io riprendo anche alcune lettere di detenuti che ci sono arrivate in quel periodo, per loro sarebbe stata la fine, perché l'assistenza, la sanità penitenziaria non esiste più. Da diversi anni, mi pare che dal 2005, le competenze, cioè non c'è più la sanità penitenziaria, ma è l'ASL esterna. Ah, un'altra delle cose. Il protocollo d'intesa regionale. Sì, quindi è l'ASL territoriale che si occupa poi delle diverse carceri. Un'altra cosa che segnalava la Commissione europea per la prevenzione della tortura in quella relazione di gennaio era la differente qualità della sanità penitenziaria su base regionale. Quindi nelle regioni dove c'era una sanità più efficiente, fai conto la Lombardia, ma con il Covid è saltata anche quella, la sanità penitenziaria era qualitativamente migliore alla sanità penitenziaria che poteva essere offerta in Calabria. Prendo questi due esempi. Per cui la consapevolezza dei detenuti che la sanità penitenziaria è inesistente in Calabria come è inesistente in Emilia Romagna. Faccio riferimento per esempio al carcere di Parma, che è uno di quelli che ha i centri SAI, che viene spacciato per uno dei centri più avanzati. I centri SAI sarebbero centri di assistenza sanitaria intensiva. Io li ho visitati, ho visitato il SAI del carcere di Parma ed è una cella con la predisposizione per una bocchetta per l'ossigeno. Questo è il centro SAI di Parma. Parma è uno di quei carceri dove noi facciamo più segnalazioni. Parma è uno di quei carceri dove i detenuti hanno paura. Nella popolazione penitenziaria Parma passa per essere un vero e proprio lazzaretto, un lager, un posto dal quale si esce solamente con i piedi avanti, ed è purtroppo proprio due giorni fa sul Gubbio, che è una delle poche testate giornalistiche insieme a Riformista che riprende molto e tratta molto la questione carceraria anche lontano dai riflettori che ci sono stati nel 2020, perché nel 2020 tutti si sono occupati di carcere. Quando succede il fatto eclatante, più o meno tutte le testate seguono, però chiaramente bisogna vedere come vanno a trattare la questione. Cioè, io non dimenticherò mai, parlo della fine degli anni 90 ai primi del 2000, a Rebibbia c'era uno sciopero che durava da oltre 15 giorni. Da oltre 15 giorni i detenuti stavano facendo sciopero del carrello, battitura, richieste al Papa e varie altre forme. La notizia in prima serata data dal, era successo anche un fatto eclatante quel giorno, la prima notizia con cui apre il TG1 è stata quella di una sfilata di gioielli per cani. Ecco, cioè, questo è la nostra informazione, purtroppo è un'informazione asservita. Passa quello che si vuole far passare. Credo che anche rispetto al conflitto, ai conflitti attuali, no? Ma io non voglio parlare neanche della Russia e Ucraina, no? Parliamo di uno che c'è da 30 anni, una resistenza che c'è da oltre 30 anni, forse 50, la Palestina. Quando parlano di palestinesi parlano di terroristi, con tutto quello che stanno subendo da oltre 50 anni. E penso che questo sia, diciamo, pacifico, no? Il modo di trattare l'informazione è a secondo di dove sta la convenienza. È la convenienza a dire che il nostro Stato è colpevole rispetto a quello che avviene nelle carceri quotidianamente, non solo per le rivolte, ma in quel momento ancora di più, perché i detenuti, anche con i DPCM che sono stati fatti, il pianeta penitenziario è stato messo in secondo piano. automaticamente esclusi dal consorzio umano, da quel consorzio umano che cercava di salvarsi dalla pandemia, perché per loro non è stato previsto niente. È chiaro, come diceva prima Valerio, a un certo punto se i colloqui erano interrotti ti portava il Covid dentro, e anche nel carcere di Bologna c'erano stati diversi contagi, anche lì le rivolte sono partite per la paura dei contagi. E dopo le rivolte buona parte dei detenuti di Bologna sono stati trasferiti a Tolmezzo, alcuni di questi si sono rivolti anche a noi. A Tolmezzo c'è stata tutta la sezione dei detenuti trasferiti da Bologna a Tolmezzo che erano contagiati, e abbiamo fatto in quello stesso periodo come associazione, poi dico questo, magari nel libro neanche c'è, diverse segnalazioni per detenuti anziani con particolari patologie. Perché l'unica cosa, poi verso il 20 marzo, e ritorniamo a quello che stavo dicendo prima, io purtroppo ho la tendenza a divagare perché poi le storie chiaramente ci intrecciano, no? Non è anche questo libro non è monolitico, dà spunti anche per andare a vedere altro, ci sono continui rimandi a vari altri scritti e documenti prodotti, perché non poteva assolutamente contenere tutto, però offre tantissimi spunti. Il 20 marzo è stata emanata questa circolare dal DAP. Ora sappiamo, magari poi dopo Maria Chiara, no? Anche rispetto a quello che è l'ordine gerarchico, noi abbiamo la Costituzione, sotto la Costituzione ci sono le leggi, poi vengono le ordinanze, poi vengono le circolari amministrative. Una circolare amministrativa non può sovradeterminare quelle che sono le leggi. Anche all'interno della nostra Costituzione noi abbiamo degli obblighi nei confronti dei protocolli e dei trattati e delle carte internazionali. Allora, abbiamo sottoscritto la Carta Internazionale dei Diritti Umani, dovremmo rispettarla, cosa che invece in questo caso non abbiamo fatto. Se un organismo internazionale al quale l'Italia ha aderito, quale è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quale è il Consiglio d'Europa, danno delle indicazioni rispetto al carcere, e il carcere non è un mondo a parte, perché i detenuti dovrebbero beneficiare dell'articolo 32, quindi della tutela della salute, al pari di qualsiasi altro cittadino. Sì, è vero, stanno in carcere, qualcosa avranno fatto, ma quel qualcosa che avranno fatto dovranno in qualche modo risarcire la società, secondo me in una maniera assolutamente stupida, perché tenere rinchiusa una persona per un tot di tempo non ripaga del danno né la vittima né la società, anzi è più che altro una spesa. È più che altro una spesa, ed è una spesa che non ci restituirà delle persone migliori. Di diverse persone che io ho conosciuto, che sono state in carcere magari anche per lungo tempo, quello che loro dicono è: se io sono cambiato nonostante il carcere, non grazie al carcere. Ci sono delle mosche bianche che riescono a trovare un'opportunità, ma sono delle mosche bianche, non è il sistema, perché la maggior parte dei detenuti non fa attività di revisione di quelli che sono state le proprie condotte. La maggior parte, la prevalenza dei detenuti trascorre il tempo della pena in maniera vuota, cioè parliamo di 24 ore a cui le diamo 2 ore d'aria, forse il colloquio la volta a settimana se sono ancora giudicabile con l'avvocato, a ridosso dell'udienza con l'avvocato, il colloquio mensile con i familiari, perché poi quelle 4 ore, se ho la fortuna di scontare la pena nella stessa città dove risiede la mia famiglia, faccio colloquio di un'ora una volta a settimana, altrimenti ne faccio uno ogni 1-2 mesi, diciamo così. Quindi è cella, è giocare a carte, è parlare, e magari le persone che in qualche modo hanno la malavita dentro, malavita inteso proprio come il rifiuto del lavoro, piuttosto che preferire, che ne so, andare a rubare, spacciare o fare altro. Magari intrecciano nuove relazioni all'interno poi delle sezioni carcerarie. La rieducazione chi la dovrebbe fare? Gli educatori? Allora, il rapporto generale, diciamo, tra la popolazione detenuta e gli educatori è di 1, 2, 3 educatori all'interno di un carcere, quando va bene, per 500, 600, 700 detenuti. Stessa cosa per quanto riguarda il personale medico. Il personale medico non risponde nella maniera più assoluta ai bisogni dei detenuti. Si segnano per visita, ma magari queste visite le fanno dopo mesi, mesi e mesi. Beh, io questa mattina sono stata a Siena per testimoniare sul processo per torture di San Gimignano, non so se ne avete sentito parlare, è successo nel 2018, ci sono anche lì i video al pari di Santa Maria Capovetere, e questa è una denuncia che si è aperta proprio grazie a una lettera che ci ha inviato il detenuto, perché all'interno della casa circondariale di San Gimignano la denuncia che avevano fatto era stata stracciata. La denuncia sono riusciti a farla nel momento in cui vengono trasferiti, ed è partita da un altro carcere, cioè dalla matricola gli hanno fatto partire la denuncia. Denuncia alla quale poi noi siamo riusciti a dare rilievo mediatico, e finalmente la procura ha aperto un'inchiesta. Oggi ci sono 15 agenti rinviati, 10 sono già stati condannati con il rito abbreviato, adesso rimangono i 5, diciamo, più alti in grado della polizia penitenziaria di San Gimignano, per cui si va a dibattimento, cioè è a dibattimento con il rito ordinario. E questa mattina io sono andata a rendere testimonianza, insomma, come test delle parti civili, e ho potuto sentire la testimonianza di un funzionario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è stato incaricato di guidare una commissione d'inchiesta sul carcere di San Gimignano. Ecco, lì la direttrice, quindi la parte civile, amministrativa, quella che dovrebbe favorire la rieducazione, organizzare la rieducazione dei detenuti, si opponeva all'ingresso di un'ambulanza, si opponeva a che i detenuti venissero portati a visita specialistica, e a lei facevano da contrattare alcuni funzionari alti in grado, responsabili quindi della sicurezza. Tutto questo confermato da un funzionario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Allora, di che cosa stiamo parlando? Allora, questa Costituzione o viene applicata e si difende, oppure poi ci ritroviamo di fronte a queste situazioni delle quali nessuno sa niente e nessuno può smentire. E non me ne voglia responsabile di Antigone Emilia, è una cosa ottima che c'è l'osservatorio di Antigone, è una cosa ottima che ci siano i garanti, però io posso dire una cosa, che non tutti i garanti fanno i garanti, cioè la maggior parte dei garanti ricoprono un ruolo politico che gli viene assegnato su base politica e non fanno quello che dovrebbero, e questa è la prima cosa. La maggior parte della magistratura di sorveglianza non fa quello che dovrebbe, perché se la magistratura di sorveglianza esercitasse il proprio dovere non ci sarebbe bisogno né di garanti né di associazioni né di niente, perché è compito loro, dovrebbe essere compito loro entrare nelle sezioni e verificare l'esattezza dell'esecuzione della pena, la correttezza dell'esecuzione della pena. E come diceva giustamente prima Valerio, si sono trasformati quasi in un quarto grado di giudizio, perché continuano a guardare quelle relazioni di questura di quando la persona è stata arrestata, ma il giudice di sorveglianza interviene sull'esecuzione penale, su quello che è diventata la persona dopo che è stata in carcere, però spesso se ne dimenticano o se ne devono dimenticare. E oggi ancora di più, perché con le modifiche che sono intervenute sulla scorta di quelli che sono stati gli allarmi lanciati durante il Covid, io penso che sostanzialmente siano state fatte due cose. La prima è quello di commissariare in maniera circolare da parte dell'antimafia gli organi di garanzia dei diritti dei detenuti. Quindi sia in qualche modo sono stati esercitati in una prima fase gli uffici dei garanti e soprattutto la magistratura di sorveglianza, perché andare ad attaccare un magistrato di sorveglianza che nelle more delle sue funzioni concede il differimento della pena a dei detenuti anziani e ammalati e metterlo sotto inchiesta, perché Bonafede ha messo sotto inchiesta il magistrato di sorveglianza che ha applicato la legge, ha applicato gli articoli del codice penale, che appunto dicevamo prima, un governo totalitario, no? Perché stiamo parlando di Mussolini, stiamo parlando del ventennio fascista, però il diritto alla salute è tutelato all'interno del codice penale. Ecco, Bonafede e Conte sono stati capaci di andare oltre Mussolini, perché con il provvedimento che loro hanno fatto, perché si è gridato all'allarme, si è gridato allo scandalo dei boss scarcerati, grazie appunto a questa circolare che monitorava solo ed esclusivamente le persone con determinate patologie ultra settantenni, e lì hanno contribuito i vari Bozzoni, hanno contribuito i vari Bianconi, Travaglio e compagnia cantando, persone, giornalisti che scrivono da una vita di mafia e che quindi hanno tirato due conti, hanno tirato veramente due conti anagrafici. Dici, vabbè, allora se qui devono uscire le persone che hanno più di 70 anni con determinate patologie, eccetera, eccetera, cioè io ci sono stata all'interno di queste sezioni di alta sicurezza dove ci stanno questi boss innominabili, io ho visto persone, cioè mi sembrava di essere all'interno di un ospizio, un reparto di geriatria. Cioè persone ultra 70-80enne, col pannolone, con la prostata, con la demenza senile, con il diabete, con il morbo di Dewey, con la demenza. Cioè, mi sembrava di essere in un reparto di geriatria, non in una sezione di alta sicurezza con questi boss così pericolosi. Cioè, ho visto delle persone anziane, ammalate, col pannolone. E quindi il buon Bonzoni si è fatto due conti. Si è fatto due conti, dice qua i settantenni, persone che stanno da 30 anni in carcere, fai conto che sono state arrestate a 35-36 anni, più o meno 40 anni, adesso avranno più o meno quell'età, e quindi ha tirato giù un elenco di tutti papabili che sarebbero potuti uscire, per cui mette il gota della mafia, dell'andrangheta e della camorra. Per tre persone che erano uscite. Tre persone che erano uscite, una di queste si chiamava Francesco Bonura, aveva quasi 85 anni, da lì a pochi mesi avrebbe comunque finito la sua pena, perché non era condannato all'ergastolo, aveva un tumore, ed è stata messa sotto inchiesta la magistrata di sorveglianza del Tribunale di Milano per aver firmato quel provvedimento con una richiesta addirittura precedente a questa circolare del 20 marzo. Però è stata messa sotto inchiesta e ha destato enorme scandalo. Perché? Perché era in 41 bis. L'altro era Vincenzino Giannazzo, si chiamava Vincenzino Giannazzo, era uscito perché trapiantato renale, perché con una serie di patologie, tra cui la demenza a corpi di lui, che è una forma particolare, rara di demenza, e Vincenzino Giannazzo è morto a novembre dello scorso anno, nel 41 bis di Parma. Lo hanno portato in ospedale dopo che la nostra associazione ha fatto la settima segnalazione, e lui era stato mandato ai domiciliari per la patologia che aveva, perché è soggetto a rischio, ma non per la circolare. Lui è stato riportato in carcere grazie alla circolare, poi al decreto Bonafede, per riportare in carcere questi boss scarcerati che Giletti ha fatto arrivare in casa nostra come se avessero messo fuori tutti, no? Come se ci fosse stato un liberi tutti, no? Però a un certo punto l'emergenza sanitaria era finita per settimane, si è solo parlato del rischio che tutta la mafia uscisse fuori di carcere. E non era così. Vincenzino Iannazzo è morto in 41 bis ed è una storia che veramente intanto era ingiudicabile. Aveva avuto in passato una condanna a 13 anni, 8 anni li aveva già scontati, ed era una persona che stava effettivamente male, non era una scusa per poter uscire, tant'è che è morto. Ma lo hanno lasciato morire in 41 bis, abbiamo il diario clinico, a breve verrà depositata anche l'esposto dei familiari per una detenzione inumana e degradante, perché una persona incapace di intendere e di volere, che viene dichiarata finanche incapace di stare a processo, cioè c'era un processo che si stava celebrando e nel mese di ottobre era stata dichiarata ufficialmente dal perito del tribunale, non dal perito di parte, perché poi questo è un altro di quei misteri che avviene. Abbiamo due medici, due professionisti, due specialisti. Se è perito di parte, se è perito del tribunale, la perizia fatta dal perito di parte vale meno della perizia fatta dal perito del tribunale. Questo poi è un altro di quei misteri, però è così. Vedo la signora che mi guarda perplessa, è così. Il perito del tribunale lo ha dichiarato incapace di stare a processo, perché non capiva più niente, però lo hanno lasciato che stesse all'interno della sua cella, abbandonato a se stesso, privo di cure, privo di assistenza, defecava per terra nella cella e si rotolava nei suoi escrementi, e sul diario clinico è appuntato regolarmente dal personale sanitario di Parma quello che avveniva nella cella del signor Iannazzo, però hanno continuato a tenerle in 41 bis, hanno continuato a rinviare la decisione se rinnovarli o meno il 41 bis, perché avrebbero dovuto levarlo, perché il 41 bis in Italia non si può toccare. E in questi giorni io faccio dei collegamenti che possono sembrare pindarici, ma non sono pindarici, perché ci sono una serie di cose che si stanno muovendo in questa direzione. In Italia non si può toccare né una determinata antimafia, non si può toccare il 41 bis, che è diventato un sacrario sul quale hanno fatto carriera una serie di magistrati, e però alcune persone vengono oscurate, viene oscurata per esempio Fiammetta Borsellino, che secondo me fa un'antimafia militante, ma Fiammetta Borsellino è una di quelle persone che si è espressa contraria al carcere così come è concepito. Abbiamo fatto un'iniziativa a Cosenza, anzi veramente ne abbiamo fatte due, una a Cosenza e un'altra a Catanzaro, con le scuole, con l'università e tanti altri soggetti. Fiammetta Borsellino è una di quelle che si dice che in carcere ci dovrebbero essere più educatori e meno guardie. È contraria all'ergastolo ostativo, è contraria al 41 bis, è una di quelle che sta invocando a questo Stato verità e giustizia per quello che è successo 30 anni fa. A giorni ci sarà l'ennesima commemorazione fasulla alla quale non andranno i familiari di Paolo Borsellino. perché lì, insomma, nei giorni scorsi c'è stata la prescrizione per chi operò il depistaggio. Cioè, se uno andasse a leggere i risultati, le risultanze della sentenza del Borsellino Quater, ci sarebbe da riscrivere la storia d'Italia. Però tutta questa pazienza non ce l'ha nessuno. E la stampa chiaramente non vuole narrare questa, non vuole narrare questa storia così per com'è, perché molte carriere finirebbero. E chi ha agitato i fantasmi della mafia in piena emergenza pandemica sono quelli che si andrebbero a perdere. Cioè, abbiamo ripreso, io ho ripreso, insomma, alcune categorie dei professionisti dell'antimafia, che però dovremmo avere la capacità e la forza di raccontarcele veramente, di interrogarci su queste cose, perché tutta una legislazione di emergenza che si va a fondare su determinati fatti e in effetti sarebbe da riscrivere completamente. Perché qualcuno ha detto, aspetta un attimo, io qui con questo virus rischio di perdere il lavoro, quindi vediamo un po' come possiamo un attimino rimescolare le carte e ritornare un attimino alla ribalta, perché sennò qua Bassetti e Pergliasco mi rubano il mestiere. Sostanzialmente è stato fatto questo. È stato fatto questo, però è stata fatta l'altra operazione, quella di commissariare, perché poi a un certo punto fanno dimettere quello che era allora capo del DAP, Bacentini, diventa il capo espiatorio e viene fatto dimettere in quel periodo. Vengono nominati al suo posto Petrelli e Tartaglia, che sono due magistrati che provengono dall'antimafia. E allora a un certo punto ritorna anche quel ragionamento sulla separazione delle carriere, no? Perché se io sono organo giudicante, ma non posso essere anche né pubblica accusa né pubblica difesa, cioè non posso essere tutto io, cioè non posso rivestire lo stesso ruolo. E in questo caso far parte dell'antimafia e passare poi alla direzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è quello che va a regolare, e qui ci sarebbe anche da dire che qualcuno che ha operato il depistaggio sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, quella di Via D'Amelio in maniera particolare, è stato messo a capo del DAP, che era Giovanni Tinebra. Però Giovanni Tinebra è uno di quelli che poi è stato condannato post mortem. Come post mortem è stato accusato e condannato l'allora capo della questura di Palermo. Cioè, ci troviamo di fronte, e queste sono cose che però sono importanti da leggere, perché a questo ragionamento qui va a legarsi il discorso della differenziazione carceraria. Che la differenziazione carceraria ha delle funzioni precise, quindi sarebbe un po' troppo esteso come ragionamento, forse meriterebbe di essere scritta anche questa storia in maniera un po' più organica, oltre che farsi delle opinioni ovviamente documentate, non per sentito dire e non ovviamente solo ed esclusivamente su quelli che sono gli organi ufficiali di comunicazione di determinate fazioni politiche, che sono populiste e giustizialiste. Però il giustizialismo in Italia ha portato a questo, ha portato a che una persona, anche in nome nostro, perché nel momento in cui un tribunale emette una condanna, la emette nel nome del popolo italiano. Allora noi ci sentiamo parte di questa comunità del popolo italiano, ci sentiamo cittadini, allora lì c'è un giudice che sta emettendo una sentenza anche in nostro nome, e le persone vengono tenute peggio delle bestie, e in una situazione pandemica vengono escluse dalla possibilità di salvarsi. Io per il momento mi fermerei qui, perché mi piacerebbe che ci fossero anche delle domande, perché potrei parlare anche per altre due ore e non fermarmi, e ruberei anche un po' l'intervento di Maria Chiara, a cui do la parola, e comunque vi ringrazio, scusate per le troppe chiacchiere. Buonasera. serata a tutti, ringrazio Vaglio per aver organizzato questo evento, devo dire che Vaglio è sempre un nuovo amico per noi di Antigone, quindi credo che peraltro le occasioni per parlare di carcere e di tutela dei diritti dei detenuti non siano mai abbastanza, quindi grazie davvero per aver pensato questa iniziativa. Ho letto il libro di Sandra, che ho trovato un'analisi ricca rispetto a quello che è accaduto nei primi mesi dello scoppio dell'emergenza pandemica. E ne ho condiviso in qualche modo l'esigenza di andare a ribaltare un po' quella narrazione che stava emergendo e che poi è emersa anche nei mesi successivi al febbraio 2020. È un'esigenza che abbiamo sentito forte anche all'interno di Antigone fin da subito. Devo dire che lo scoppio della pandemia chiaramente ha portato a delle conseguenze drammatiche che hanno che si presentano come straordinarie, ma quello che è sembrato da subito importante sottolineare è stato dire da subito come quegli eventi drammatici, anche che hanno portato alla morte delle 13 persone, in realtà si inserissero in un contesto, si siano inserite in un contesto caratterizzato da ordinarie criticità rispetto a quella che è la vita delle persone detenute all'interno degli istituti. Effettivamente i primi provvedimenti di chiusura, quindi di sospensione dei colloqui, di sospensione delle attività trattamentali, che prevedevano anche l'ingresso di persone esterne, sono avvenute anche in questi territori, come si ricordava prima, fin dal febbraio 2020, quindi prima che in altre zone d'Italia, e istituti anche dell'Emilia Romagna si sono visti quindi sono stati chiusi fin dal febbraio del 2020, e questo chiaramente ha comportato e gestato nello sconforto più totale la popolazione detenuta. Le informazioni probabilmente che sono girate all'inizio anche rivolte alla popolazione detenuta rispetto all'entità dell'emergenza pandemica, di cui si è parlato molto all'esterno, sono probabilmente state informazioni frammentarie, a volte non del tutto adeguate, soprattutto nella prima fase. L'esigenza che abbiamo avvertito rispetto appunto a questo discorso della narrazione che veniva proposta nei primi momenti ci ha portato innanzitutto al di là poi delle proposte che sono state portate avanti anche dall'associazione Antigone, che insomma sono andate nella direzione di suggerire misure deflattive che andassero a decongestionare gli istituti penitenziari, ma anche al nostro interno come articolazione regionale devo dire che abbiamo sentito forte l'esigenza di ricordare quello che era il carcere prima. Lo abbiamo fatto in un primo momento parlando delle condizioni di Modena, perché Modena è stato teatro in questa regione purtroppo degli eventi drammatici che conosciamo, e molti di noi hanno scritto di quello che era il carcere prima, di quello che era quel carcere anche nello specifico, e delle informazioni che noi avevamo ormai da qualche anno anche sulla base di osservazioni costanti che annualmente portiamo avanti negli istituti di questa regione. Era un carcere altamente sovraffollato, erano circa 550 le persone detenute in quell'istituto, quindi altamente al di sopra di quella che viene definita la capienza regolamentare. È un carcere che comunque in Emilia Romagna ha sempre svolto un ruolo centrale, è sempre stato istituto che subiva anche forti trasferimenti, importanti trasferimenti dagli altri istituti delle regioni, quindi anche un istituto di passaggio, un istituto in cui vi era un'altissima presenza di detenuti di nazionalità straniera che rappresentavano all'epoca dei fatti del marzo 2020 circa il 70% della popolazione detenuta, e in realtà, sempre parlando di narrazioni distorte, una percentuale di detenuti con problemi di tossicodipendenza in realtà poco al di sopra di quella che è la media che si registra negli altri istituti della penisola. All'epoca erano circa il 30%. Questo lo dico sempre rispetto alle considerazioni che si facevano prima, anche le considerazioni che sono state fatte, le dichiarazioni che sono state fatte successivamente alla notizia delle morti, riportavano una descrizione delle persone decedute, liquidandole con affermazioni del tipo: si trattava per lo più di detenuti di origine straniera, per lo più tossicodipendenti, quindi quasi già anticipando quella che poi è stata la lettura che è stata portata avanti anche nei mesi successivi. Credo che sia stato importante che sostanzialmente questi eventi drammatici abbiano in qualche modo acceso la lente su quelle che sono le contraddizioni del carcere, che però chi è abituato ad attraversare quelle sezioni conosce, e conosce al di là dell'emergenza sanitaria che è scoppiata. Quello che abbiamo cercato di fare e che cerchiamo di fare è riportare anche quello che è frutto un po' delle nostre osservazioni rispetto a istituti che conosciamo bene, come quello di Modena, che ad oggi, comunque, dopo un primo periodo in cui le presenze sono chiaramente diminuite anche a fronte della inagibilità degli spazi, ad oggi sono ricominciate comunque a crescere. Quello che mi viene da riportare stasera è un po' chiedersi cosa ha lasciato l'emergenza sanitaria, cosa hanno prodotto quei provvedimenti che sono stati presi per gestire la popolazione carceraria in carcere. Come Antigone, devo dire che nel 2020 abbiamo avuto la possibilità di fare di nuovo l'ingresso in carcere soltanto nei mesi estivi, mesi in cui in quel periodo insomma, l'emergenza sembrava essere rientrata, e in quei mesi, per scelta anche di alcuni di noi, abbiamo scelto di non fare accesso alle sessioni, anche a tutela della popolazione detenuta, ma abbiamo avuto modo comunque di avere colloqui con le varie direzioni, e quindi la situazione che si presentava era con le dovute differenze tra istituto e istituto, che comunque ci sono, ma era una situazione in cui appunto mancavano, erano ancora sospese le attività. Forse nei mesi estivi in qualche istituto erano stati ripresi i colloqui in presenza, soprattutto con gli istituti dotati di aree verdi all'esterno, con tutta una serie di accortezze che in realtà consistevano magari nell'utilizzo del plexiglass oppure nel fare il colloquio appunto nelle aree verdi. Devo dire che nei primi mesi, nei primi periodi dallo scoppio dell'emergenza sanitaria, i contagi all'interno degli istituti non apparivano così elevati, ma nei mesi successivi, anche nel corso del 2021, ma anche più di recente, devo dire che abbiamo registrato scopi importanti di focolai all'interno di diversi istituti. La riflessione che penso sia importante fare è quella che dicevo prima, e una degli aspetti prodotti dall'emergenza sanitaria è stato quello di riportare ad un regime sostanzialmente di chiusura delle celle. Quindi questo è un aspetto che noi riteniamo, abbiamo ritenuto e continuiamo a ritenere di fondamentale importanza, nel senso che per noi è assolutamente importante evidenziare come ritornare ad un regime di custodia chiusa vada ad incidere su quella che è la quotidianità detentiva delle persone che sono ristrette nei nostri istituti, e devo dire che rispetto a questo elemento in alcuni casi la chiusura delle sezioni c'è stata giustificata anche e soprattutto nella prima fase dell'emergenza sanitaria come misura necessaria per contenere il rischio del contagio. In altri casi devo dire che invece c'è stato detto in maniera un po' più chiara e anche più pacifica come rispondesse invece ad esigenze di sicurezza, anche a seguito di quanto accaduto. Questa era la giustificazione che in qualche caso ci è stata data. Ad oggi questo meccanismo ancora di parziale chiusura persiste. Credo che questo sia un dato su cui continuare a tenere alta l'attenzione, proprio perché credo che il rischio da evitare sia quello di rendere ordinarie, delle misure che sono state attuate in un momento emergenziale, e quindi il rischio di ritornare sostanzialmente ad un carcere ancora più afflittivo di quello che era pre-pandemia. Quindi io davvero mi fermerei qui, perché credo che insomma siano molte le sollecitazioni anche di Sandra, quindi lascio anche spazio al dibattito, quindi al momento vi ringrazio. Io vorrei aggiungere due cose, se è possibile. Prima no, perché sennò poi le perdo. Mi sono ritornate grazie all'intervento anche di Maria Chiara. Allora, sul fatto della nazionalità dei detenuti morti si è tenuto un gran riservo, ma si è tenuto un gran riservo per diverse settimane. Si è riuscito poi ad averne notizia grazie a un giornalista del Corriere della Sera, che è Giuseppe Ravella, anche se poi ci sono altre narrazioni e altre persone che cercano di intestarsi questo tra virgolette merito, però non è stato così. Il primo proprio che è riuscito a dare i nomi è stato Giuseppe Ferrarello sul Corriere della Sera. La seconda è che a fronte di, cioè in quegli stessi giorni più o meno, in quello stesso periodo, c'è stata la morte di George Floyd a Detroit, quindi dall'altro capo del mondo. Si sono fatti 3 figli in tutto il mondo, e anche in Italia molte città hanno risposto con 3 figli di indignazione per la morte di George Floyd. Ecco, per la morte di 13 persone avvenuta più o meno alla stessa maniera, non c'è stata un'indignazione corale, non c'è stata un'indignazione corale. Al di là di queste 4 associazioni che si occupano costantemente di detenuti e del comitato che è riuscito, cioè delle donne e dei familiari che sono scesi in strada l'8 marzo, io scrissi anche all'epoca veramente un 8 marzo delle donne dei detenuti che sono andati fuori dalle carceri. Però poi a livello di società civile non si è mosso nulla. E questo purtroppo è veramente una cosa, non dico negativa, un demerito, che ho una grave colpa da parte nostra, di tutti veramente, di non esserci indignati, perché oggi queste persone rischiano, e rischiano veramente tanto, perché si è parlato poi tanto di quelle sezioni devastate, che lo Stato avrebbe dovuto spendere tanti soldi, ma delle vite non se ne è parlato più. Chi è stato individuato come promotore delle rivolte in carcere oggi è a processo per devastazione e saccheggio. Quindi ancora una volta in Italia, come più di 20 anni fa a Genova, una vetrina vale più di una vita umana, e in questo caso una sezione vale più, una sezione o un armadietto o una qualsiasi suppellettile è valsa più di 13 vite umane che sono state stroncate. E alla storia del metadone io non crederò mai. Adesso abbiamo un intervento di Valerio Pascali, sempre dell'associazione Antigone. Non è presente perché è a processo a Lecce per il movimento No TAP, e quindi il processo è continuato, ma ci ha voluto, dato che era previsto il suo intervento, mandare un intervento audio che ascoltiamo volentieri. Buonasera a tutte e a tutti, e grazie per questo spazio e per questa possibilità di dibattito. Io sono Valerio Pascali, faccio parte di Antigone Emilia Romagna ormai dal settembre 2015 e mi occupo di ricerca inerente al penitenziario, nello specifico sociologia del penitenziario, e ho avuto la possibilità di condurre 2 differenti ricerche occupandomi di sorveglianza interna e di sorveglianza dinamica sia presso il carcere Due Palazzi di Padova, e da ultimo ho condotto una ricerca inerente al lavoro penitenziario presso il carcere d'Ozza. Io primariamente vorrei davvero tanto scusarmi per non esserci e per non essere lì presente insieme a voi. Vorrei scusarmi con i compagni e le compagne di VAG, con tutti i presenti, ma purtroppo alcune scadenze processuali, diciamo così, sono coincise un po' con l'appuntamento di questa sera a VAG, e quindi sono dovuto essere presente ieri in udienza relativa alla lotta contro il TAP ed alcuni blocchi che insieme ai compagni e alle compagne di Lecce abbiamo fatto presso il cantiere di Melendugno. Vi ringrazio ancora e partendo un po' dal libro che io ho letto e ho trovato molto interessante, dettagliato e mi ha colpito molto anche la parte con i contributi di detenute e di detenuti. Li ho trovato molto profondo e interessante il libro scritto da Sandra Berardi. L'ho trovato anche ricco di sollecitazioni e ricco di spunti. In questo senso, a partire proprio dalla prima parte del libro, vorrei provare un po' a ricostruire quello che è stato l'impatto dell'emergenza sanitaria, cosiddetta emergenza sanitaria, e della diffusione del Covid presso gli istituti penitenziari, più in generale sul nostro sistema penitenziario. In questo senso l'emergenza sanitaria che ormai è scoppiata 2 anni fa dovuta alla diffusione del virus Covid-19, come abbiamo potuto osservare, ha interessato molto da vicino il nostro sistema penitenziario. Infatti, con il propagarsi dei contagi, il virus è finito per entrare nelle carceri italiane. E i primi casi sono stati registrati sostanzialmente a partire dalla metà di marzo. E in questo senso un primo elemento che secondo me si può cogliere è come il virus rispetto al resto del paese, dove correva molto veloce e si diffondeva velocemente facendo registrare migliaia di contagi al giorno, differentemente negli istituti penitenziari ha fatto ingresso con, potremmo dire, significativo ritardo. Tale elemento probabilmente è riconducibile alla separazione fisica e spaziale, all'isolamento netto del carcere dal resto della società. Tale separazione, però, tale isolamento, come dire, tale lentezza del virus a entrare nelle carceri, ha mostrato però da subito la sua ambivalenza. Infatti, come ci ricorda Scandurra in un articolo pubblicato per Antigone, l'isolamento relativo del carcere dalla società ha avuto un effetto di protezione all'inizio, ma dove questo muro poi non ha tenuto, in alcuni casi si sono registrati numeri di contagi davvero assai, assai preoccupanti. E questo perché quando il virus entra in luoghi sovraffollati e malsani, come le nostre carceri, fermarlo o arginarlo diventa davvero molto complicato. Inoltre, l'emergenza sanitaria che abbiamo attraversato e che per alcuni aspetti continuiamo ad attraversare, inoltre si è innestata su condizioni pregresse di fatiscenza degli istituti penitenziari, carenze di presidi e personale sanitario e ovviamente un cronico sovraffollamento costringendo i detenuti e le detenute a, come dire, a vivere una quotidianità come dire, fatta una quotidianità fatta appunto di forzata promiscuità che poi forzata promiscuità che ha portato a contagi al numero di contagi letali e ha contribuito ad aggravare, come dire, le condizioni medico-sanitarie nelle quali i detenuti sono costretti a scontare la propria pena. E volendo riprendere un attimo due autori, punto di riferimento della letteratura inerente al penitenziario come Gallo e Ruggero, possiamo affermare che il carcere è da sempre un luogo di contagio, di diffusione del morbo che nelle diverse contingenze storiche aggredisce sostanzialmente i più indifesi. Polmonite e scorbuto nelle prime galere, infezioni di ogni tipo, AIDS nel carcere contemporaneo e aggiungo io, potremmo dire da ultimo, Covid-19 nelle carceri dei nostri giorni. E provando a entrare ancora più nel merito di quelli che sono stati gli effetti e l'impatto del Covid all'interno del penitenziario, possiamo vedere come sostanzialmente gli effetti si siano manifestati su due livelli. Un primo livello è quello sostanzialmente personale, che ha riguardato la quotidianità e la vita personale di ogni detenuto e di ogni detenuta, e un altro livello invece è stato un livello, diciamo, prettamente organizzativo, gestionale, di politica penitenziaria dovuto al Covid-19. E in questo senso sappiamo che con l'evolversi dell'emergenza sanitaria, durante la fine del mese di febbraio, l'amministrazione penitenziaria, come riporta in maniera anche dettagliata l'autrice del libro Sandra Berardi, l'amministrazione penitenziaria, dicevo, ha adottato una serie di misure specifiche per la prevenzione del contagio da coronavirus, che sono consistite sostanzialmente nella sospensione dei colloqui con i familiari, nella cessazione delle attività trattamentali e lavorative, sia interne che esterne, e nel blocco totale degli ingressi dei volontari e più in generale della comunità esterna. Mentre bisogna sottolineare, agli agenti che entravano e uscivano nell'alternanza dei propri turni lavorativi, non veniva fatto alcun test, alcun controllo, alcun screening medico-sanitario per rilevare un ipotetico contagio. Tali provvedimenti sono stati applicati in senso meramente restrittivo più che preventivo e hanno inciso in modo diretto sulla vita dei detenuti, mutandone la quotidianità penitenziaria. E in questo senso, infatti, sappiamo che i contatti con il mondo esterno sono una dimensione fondamentale dell'esperienza detentiva di tutti coloro che sono ristretti. È un ruolo primario rivestito proprio dai colloqui con i familiari. In questo senso, nel corso delle varie ricerche e delle osservazioni effettuate all'interno dei penitenziari, è emerso come, in generale, negare il colloquio con i propri cari e più in generale con quelle persone che sono punti di riferimento per il recluso durante la detenzione, significa negare un momento che afferisce la dimensione dell'affettività, in quanto è attraverso i colloqui che con i propri cari che i detenuti cercano di non spezzare quei legami affettivi che la vita in carcere interrompe in maniera netta. E in questo senso costituiscono il momento durante il quale i detenuti accumulano risorse affettive ed emotive, oltre che materiali attraverso la consegna di generi alimentari e vestiario, come dire, consentiti, fondamentali nella quotidiana resistenza alle condizioni di reclusione che appunto la situazione di detenuto impone. Inoltre sappiamo che il trattamento penitenziario si basa principalmente su tre elementi: istruzione, lavoro e religione. E possiamo notare come anche in questo caso il Covid-19 e l'impatto dell'emergenza sanitaria abbia inciso su questi aspetti. La partecipazione alle attività scolastiche e universitarie, che, come abbiamo già osservato, furono sospese e sono state sospese durante il periodo dell'emergenza sanitaria, la partecipazione alle attività scolastiche e universitarie, oltre a costituire una possibilità di istruzione, ovviamente, per il detenuto o la detenuta, si rivela anche una risorsa essenziale come strategia spesso agita dal recluso o dalla reclusa per alleviare le sofferenze della detenzione, uscire dalla cella, passare il tempo o provare a ritagliarsi momenti di socialità. E allo stesso modo anche il lavoro in carcere è un fattore determinante per la qualità della vita intramuraria, oltre che per la mera sopravvivenza, diciamo, in quanto costituisce una risorsa importante appunto per la popolazione detenuta. Attraverso il lavoro, appunto, il detenuto ha la possibilità di ricavarsi risorse economiche che gli consentono di non gravare sui propri affetti. Inoltre, attraverso il lavoro, io mi sto soffermando su questo aspetto del lavoro perché è importante far emergere e far notare come il blocco di tutte queste attività scolastiche, lavorative e non solo abbia generato un ulteriore malessere, un surplus di pena, potremmo dire, ai detenuti e alle detenute, in quanto appunto il lavoro risulta, come dire, funzionale ad aggirare la staticità e l'inoperatività forzata della galera, potremmo dire, determinando appunto almeno in parte, parzialmente, la giornata in carcere. In gran parte giornata in carcere che trascorre, come dire, priva di riferimenti temporali. Infatti, in questo senso, il tempo recluso è percepito molto spesso come monotono e ripetitivo e tende a creare nel detenuto un senso di paranoia e disagio, soprattutto nelle detenzioni di lunga durata, nelle quali, come dire, è di fondamentale importanza scandire e organizzare il proprio tempo. Il tempo e lo spazio, appunto, sono elementi che definiscono la quotidianità del recluso, su cui agisce l'istituzione carceraria, e assumono connotati altamente critici in relazione alla situazione pandemica. E in questo senso io nel tempo mi sono occupato di sorveglianza interna e di, nello specifico, di sorveglianza dinamica. Sorveglianza dinamica che sappiamo essere stata applicata successivamente alla condanna con la sentenza Sulemanovic prima e Torreggiani dopo da parte della Corte Europea dell'Italia. E le celle vengono aperte, i detenuti hanno la possibilità di come dire, occupare tutto lo spazio della sezione e fare socialità. Con i blocchi, con l'emergenza sanitaria, un'altra volta è rimutato il parametro spaziale per il detenuto, il quale se prima aveva assunto come parametro spaziale minimo l'intera sezione, dall'oggi al domani si è ritrovato ad essere nuovamente chiuso, nuovamente costretto a permanere nella propria cella. E quindi è evidente come la pandemia abbia avuto anche un impatto su quella che è l'organizzazione del tempo recluso, dello spazio interno, e creando una serie di come dire di riadattamento appunto ai nuovi parametri spaziali e di gestione del tempo. Da ultimo, inoltre, bisogna anche sottolineare come anche gli osservatori di Antigone o altri osservatori indipendenti nella fase pandemica abbiano registrato l'assenza di dispositivi all'interno dei penitenziari, quasi un totale abbandono della popolazione detenuta a se stessa e, come dire, quando fuori ci veniva imposto di stare a un metro di distanza, molto spesso o sempre all'interno dei penitenziari si era invece in tre in una stanza con un'elevata promiscuità. E io non voglio rubarvi altro tempo, concludo riprendendo un passaggio che mi ha molto colpito, l'introduzione del libro di Sandra Berardi, come dire che il carcere è l'espressione di tutta l'incapacità della nostra società di essere comunità. Vi ringrazio ancora a tutte e a tutti. Bene. È stato abbastanza corposo fino adesso l'incontro. Se qualcuno o qualcuna vuole dire qualcosa per intervenire, fare qualche domanda, altrimenti diamo un'ultima giro di interventi a Sandra essenzialmente e poi concludiamo. Non ci sono interventi, ci sono interventi? Soddisfatti e rimborsati. Sandra, perché fai una conclusione, dai, con questo che. Ma io. È aperto? Si sente? Forse l'hai abbassato troppo. Ecco. La conclusione è che dobbiamo iniziare, perché secondo me. Proprio per quel concetto di comunità non possiamo permettere che chi è rinchiuso in carcere o in qualsiasi altra istituzione totale non venga considerato parte della nostra comunità. Quindi dobbiamo iniziare, intanto sarebbe opportuno iniziare a ragionare veramente in termini diversi sul concetto di pena, perché dobbiamo pensare anche che all'interno della nostra Costituzione, sì, una delle Costituzioni più belle d'Europa, che di fatto rimane inattuata, la parola carcere non esiste. Cioè proprio il concetto di reclusione, di privazione della libertà a fronte della commissione di un reato non esiste, esistono le pene. quindi in qualche modo una sanzione da comminare a chi va a rompere quel patto sociale che dovrebbe esserci o che c'è e qualcuno lo rompe, che però non necessariamente deve essere la reclusione corporale, la reclusione fisica, perché non porta nessun beneficio né a chi viene recluso, ma come dicevo appunto prima, né a chi ha subito in qualche modo il torto, qualsiasi esso sia. Quindi provare a iniziare a ragionare in termini abolizionisti, provare a dircelo, se 40 anni fa si è riusciti ad abolire i manicomi, anche se di fatto ancora esistono, però l'idea del manicomio, grazie a Basaglia e grazie a quello che era anche il contesto sociale e politico di quegli anni, a tutta quanta una serie di figure che hanno iniziato a mettere in discussione il proprio ruolo. Io vi invito a prendere, che è lì in distribuzione, perché mi piaceva l'idea di stamparlo, ma è scaricabile gratuitamente, così come è scaricabile gratuitamente anche il libro. E questi li abbiamo stampati perché andranno a sostenere in qualche modo un po' le attività dell'associazione, ma in prima battuta il libro è stato pubblicato ed è ancora oggi scaricabile gratuitamente sul sito di Strade Bianche, così come quell'altro muscoletto è scaricabile sul sito di Malanova. Quello lo potete prendere del tutto così com'è. Un mondo senza galere è possibile, lo dobbiamo iniziare ad immaginare, ma partendo sia da noi come società, provando ad andare anche a valutare quelli che sono i costi e benefici rispetto all'esistenza del carcere così come oggi, no? Come diceva giustamente prima Maria Chiara, valutava quella che è la qualità dei detenuti, cioè non è che in carcere ci sono tutti quanti serial killer e boss mafiosi. La criminalità, l'alta criminalità saranno 5-6 mila persone, ma abbiamo mediamente una popolazione detenuta di 50-60 mila persone. Questo perché la capienza regolamentare è di 47 mila posti, quella effettiva. Quella tollerabile è di 52, però arriviamo spesso a 60 mila, 70 mila e oltre. C'è qualcuno che dice che bisogna costruire più carceri, però andando a costruire più carceri ci ritroveremo sicuramente con nuove tipologie di detenuti. Basta pensare che all'interno del codice penale ci sono oltre 5.000 fattispecie di reati penali, però poi quando andiamo a guardare dal vivo anche la popolazione reclusa, cioè all'interno di carceri come quello di Poggio Reale, vai a trovare i parcheggiatori abusivi, vai a trovare gli effetti dei pacchetti sicurezza, perché non abbiamo solo il codice penale, abbiamo anche i pacchetti di sicurezza che vanno a configurare altre fattispecie di reato e prevalentemente sono legati a marginalità sociali, a povertà, a meccanismi di esclusione sia dai circuiti del mercato del lavoro, ma sia meccanismi di esclusione sociale vere e proprie. Quindi cioè, se in America la maggior parte della popolazione detenuta sono gli afroamericani, in Italia sono tossicodipendenti, piccoli spacciatori, parcheggiatori abusivi. Cioè, io ricordo anni fa, per esempio a Firenze, volevano introdurre il reato di questua molesta, cioè di persone che chiedono l'elemosina, la questua, riprendendo il termine cattolico biblico, sarebbe il chiedere l'elemosina, molesta, perché queste persone davano fastidio in qualche modo al salotto buono della città, a quella città turistificata appunto che è Firenze, per cui si dovevano mettere in carcere. Quindi meccanismi di esclusione dal consorzio sociale. E allora dobbiamo un attimino ripensarci come comunità e capire come sanare, come aiutare le persone ad uscire fuori dai circuiti di marginalità nei quali finiscono sia per tossicodipendenza sia per povertà. Ricordarci che prima dell'articolo 27 della Costituzione viene l'articolo 3, quindi quello di mettere tutti e tutte nelle condizioni di poter godere di qualsiasi bene, e questo è un dovere dello Stato. Ma lo Stato siamo noi o sono solamente quei quattro che la mattina si alzano e decidono che ci governano? Buono. No, quello è il governo, quindi è quello che amministra la cosa pubblica. Però da parte della comunità che devono venire le indicazioni del modello di società che vogliamo. E le altre figure che devono iniziare a mettere in discussione il proprio ruolo, e io per esempio vi consiglio prossimamente di far venire qui Elisa Mauri, che ha scritto un libro, perché il carcere è un piccolo librettino, però anche quello è un librettino abolizionista, l'abbiamo presentato due mesi fa a Napoli, e lei è una psicologa carceraria. E appunto lei si è posta da quel punto di vista basagliano di mettere in discussione il proprio ruolo, di essere un tecnico, di essere un tecnico al servizio di una determinata istituzione e di portare avanti un mandato. Ecco, il carcere è da immaginare come un luogo di cura. Se io vado in ospedale per essere curata da un male, in carcere si va per essere curati da una forma di devianza, in teoria. In realtà non è così, perché spesso si esce più cattivi di come si è entrati, perché i modelli relazionali che si vanno a instaurare all'interno delle carceri sono modelli di dominio e di prepotenza. Vale la legge del più forte, vale la legge della giungla, perché altrimenti se non ti adatti a quei modelli soccombi. E non avviene solamente tra detenuti questo processo, avviene troppo spesso, e questo credo che le immagini di San Gimignano prima, di Santa Maria Capua Vetere, ma anche le altre che sono uscite fuori da Milano, da Torino e da altre carceri, ce la dicano lunga, insomma, su come spesso gli organi di sicurezza gestiscono i rapporti con i detenuti, quindi un rapporto basato sulla forza. E allora gli educatori, i sociologi, i docenti universitari che entrano all'interno delle carceri, che svolgono un qualche ruolo all'interno delle carceri, devono fare un bilancio tra quello che vanno a fare e quello che poi invece vanno a legittimare, perché questo è l'opera che ha fatto Basaglia con i suoi tecnici: mettere in discussione proprio il proprio ruolo, perché loro dovevano legittimare il potere che non voleva questi matti che circolassero per strada. Allora noi oggi i matti ce li abbiamo comunque. Tanti sono riversati all'interno delle carceri, sono in attesa di un posto all'interno di una REMS, che sono le residenze di esecuzione penale esterne, proprio per persone con problemi di natura psichiatrica, ma che hanno commesso anche qualche crimine o comunque catalogato tale. Io non credo molto nella classificazione dei crimini, perché secondo me i crimini, come i diritti, sono qualcosa che dipendono dai rapporti di forza. I diritti sono una questione di rapporti di forza. Noi rivendichiamo diritti, il diritto alla salute anche fuori, lo abbiamo fatto tanto anche durante la pandemia, nel momento in cui si è visto negato. Però anche lì è subentrato il rapporto di forza. Il rapporto di forza tra chi ha la voce più grossa e chi voce non ne ha o non è abbastanza consapevole di averla. E anche i crimini sono sono determinati da rapporti di forza. Ecco, cos'è più criminale? Rubare un sacchetto di patate in un supermercato per fame e farti 6 mesi di carcere? Oppure sottrarre allo Stato 47 milioni di euro e fare il ministro? Ecco, perché questa cosa qua a me i conti non me li fa tornare. Quindi, ecco, cos'è più criminale? Perché, per esempio, l'episodio... Cioè, ci sono alcune cose che a me i conti sempre non tornano. Penso che ricorderete tutti, 2-3 anni fa, a Ragusa, due ragazzi con un SUV investono e uccidono due cuginetti, due ragazzini morti a Ragusa investiti da un SUV. È uscito fuori che chi guidava il SUV aveva fatto uso di cocaina. Beh, queste persone sono già fuori dal carcere perché erano figli di, probabilmente, perché comunque essere cocainomane con il SUV è molto più ben tollerato che essere ubriacone con il carrello che te ne vai in giro per la città e magari non molesti nessuno. Ecco, quindi il tipo di società che noi siamo, ma anche il tipo di giustizia che noi vogliamo, ce lo dobbiamo completamente riimmaginare, perché secondo me non può esserci giustizia senza giustizia sociale. Credo di non avere nient'altro da dire. Grazie. Grazie a Sandro, grazie a Mira Chiara. Grazie anche a Valerio. E grazie a voi.